L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Oggi siamo in diretta da Trento, Festival dell'Economia, la nostra postazione qui in Piazza Pasi. Sovranità in conflitto, questo è il tema del Festival dell'Economia di quest'anno e la parola Europa echeggia tantissimo qui per le vie di Trento, lungo gli incontri, dibattiti, convegni e non solo, perché l'economia può essere raccontata in tantissimi modi, l'Europa anche. Oggi vi daremo delle dimostrazioni pratiche qui durante questa puntata. L'Altra Europa, un programma in collaborazione con Euronet Plus. Vi ricordo che ci trovate sia su Facebook sia su Twitter, sui miei account personali Federico Taddia, Piazze Virtuali, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ed entriamo subito nel programma sia del Festival sia nell'Altra Europa, perché con noi oggi ci sono alcuni dei protagonisti di queste giornate trentine. Do il benvenuto a Fabio Ranchetti. Ciao Fabio. Allora, buongiorno, ciao a tutti. Ci siamo messi d'accordo che come presentazioni leggiamo quelle istituzionali, quindi ha studiato filosofia ed economia nell'Università di Milano e di Cambridge, è stato professore ordinario di economia politica nell'Università di Pisa, ha insegnato a Torino, Pavia, al Politecnico di Milano, fondatore del Centro Studi Luca Dagliano di Torino, collabora con il Corriere della Sera e poi le ultime due righe che sono alla fine quelle che a me interessano, e così ama parlare di distribuzione della ricchezza, dell'equilibrio economico generale, di rapporti tra economia e letteratura, e utilizza nell'insegnamento cinema, teatro, social network, tanto teatro, che è quello che hai fatto anche qui ieri sera a Trento, ne parleremo tra pochissimo. Certo. E poi c'è invece Andrea Ferrazzi, giornalista, consulente politico, esperto di strategie di comunicazione, fondatore del movimento Slow Communication e soprattutto protagonista di un incontro che ci sarà oggi pomeriggio, Facoltà di Economia, e un bel titolo, perché insieme all'Osservatorio Storytelling ha organizzato Raccontare l'Europa. Qual è oggi la narrazione che si fa dell'Europa? È possibile contrastare l'euroscetticismo? E se si fa, come, con quali tecniche comunicative? Ciao Andrea, benvenuto. Buongiorno, ciao. Una bella sfida, quella di rendere calda, rendere bella, rendere narrativa l'Europa. Sì, una sfida forse qualcuno direbbe ormai impossibile, però ci si prova. Ci si prova ogni settimana qui all'Altra Europa e cerchiamo di capire anche voi con l'incontro di oggi cosa vi proponete. Fabio, invece, vorrei partire proprio da te. Sovranità. Parola difficile, parola complicata, parola suggestiva, parola affascinante. Hai trovato tu una definizione di sovranità che forse è quella che meglio racchiude il clima che si sta vivendo in questi giorni qui a Trento? Allora, in effetti è una nozione molto difficile, nel senso che è una nozione complessa. Per sovranità si possono intendere diverse cose. Io ho visto, per esempio, che è importantissimo la lingua, e mi sono anche domandato qual è oggi la nazione sovrana, chi è che ha la sovranità. Se ci limitiamo all'Europa, che è la cosa che oggi forse più ci interessa, anche perché siamo europei e siamo qui a parlare di Europa, la risposta alla domanda qual è la nazione sovrana e che cosa quindi significhi essere sovrani in Europa è abbastanza facile, nel senso che la nazione sovrana è la Germania. Però mi sono subito posto è risultato subito evidente una specie di paradosso, e cioè che la nazione economicamente, politicamente dominante e quindi in questo senso sovrana non è anche nello stesso tempo oggi la nazione culturalmente dominante. Okay. Non solo, ma la lingua della nazione dominante, la Germania, il tedesco, non è tra le sei lingue ufficiali dell'ONU, cioè è meno importante di altre nazioni, come per esempio la Francia, la cui lingua è riconosciuta come una lingua ufficiale, mentre il tedesco non lo è. E questa è fonte quindi di contraddizione, di squilibri, vuol dire sì, che l'economia non va a fianco della cultura, non va a fianco della storia? Esattamente, proprio così. Ovvero ci possono essere, l'idea normale, diciamo, di sovranità è il potere, il dominio su un territorio, e uno tanto più è sovrano, sia come re, come sovrano o una nazione, quanto più è esteso il suo territorio. Ma allora noi abbiamo il paradosso che un paese come la Russia ha un territorio estesissimo, ma c'è accanto un paese come la Cina, che ha un territorio molto più piccolo, ma che è molto più importante della Russia, perché la Cina, la lingua della Cina, il mandarino, è la prima lingua oggi al mondo. Fabio, ti utilizzeremo in questa puntata anche come attore. Questo è già più difficile. Prendo spunto da quello che hai fatto ieri sera, sì. Perché sovranità, diversità e identità sono, sì, un po' state i sentimenti, sì, che hai portato sul palco, scegliendo delle letture, sì, vero? Sì. Allora, posso dire come ho scelto, certo, queste letture? Il mio percorso è stato proprio quello di partire dall'oggi e da questa osservazione che ho appena fatta sull'importanza della Germania dal punto di vista politico e economico, ma questa assenza della Germania nel dibattito culturale. Oggi, anche se qui vediamo al festival, quanti sono gli economisti, per limitarci all'economia, tedeschi? O quali sono gli economisti tedeschi famosi? In generale, se noi pensiamo agli economisti famosi, ci vengono in mente subito economisti stranieri, ma non tedeschi. So, Krugman, che peraltro dal nome già rivela una sua provenienza tedesca, però è un premio Nobel americano. Stiglitz, lo stesso. Amartya Sen, premio Nobel, ma è indiano, però vive in America e scrive i libri in inglese, non li scrive neanche in hindu, nella sua lingua originaria, che peraltro è una delle lingue più importanti. Quindi, ecco, questo è stato l'inizio del mio percorso. Allora, partendo da qui, ho pensato, ma è sempre stato così? No, non è stato così, perché se noi facciamo un piccolo passo indietro nel tempo, andiamo nel Novecento, quindi secolo scorso, però non lontanissimo, vediamo che i grandi intellettuali europei, tra i grandi intellettuali europei, la cultura tedesca era assolutamente fondamentale. Mm-hmm. E quindi insomma un viaggio, sì, nella letteratura lo faremo anche noi, sì, abbiamo estrapolato brevissimi brani che hai utilizzato ieri sera e li utilizzeremo come punteggiatura. Si può raccontare l'Europa facendo narrazione? Questa è la domanda che si sono poste, che si porranno oggi pomeriggio in questo incontro alle 15. Qual è oggi la narrazione che si fa dell'Europa? Con noi Andrea Ferrazzi. Intanto, Andrea, che cos'è Slow Communication, questo movimento che tu hai fondato, ideato? Sì, è appunto un movimento che si propone di diffondere anche in Italia una nuova e diversa cultura digitale. E anticipo la domanda: cosa c'entra questo con l'Europa? C'entra perché i social media sono uno dei terreni in cui l'euroscetticismo e le posizioni, come dire, semplicistiche si propagano, si diffondono con maggior facilità. Tu hai fondato anche Polis Comunicazione, un'agenzia di relazioni pubbliche, di fatto ti occupi a tempo pieno di comunicazione politica, attualmente lavori nella segreteria del vicepresidente vicario del Consiglio regionale del Veneto. Esatto. Perché l'Europa ha bisogno di essere raccontata in maniera diversa oggi e qual è questa maniera diversa, se esiste? L'idea che ho e che credo possa essere condivisa è che attualmente l'Europa viene raccontata, si parla di Europa soltanto utilizzando un gergo economico, e infatti in questo senso vorrei anche con una piccola provocazione: il fatto che sia un festival dell'economia a parlare di Europa non aiuta l'Europa a essere raccontata, a apparire in modo più piacevole agli occhi dei cittadini, dell'uomo della strada. E quindi un utilizzo esclusivo dei termini economici, spread, austerità, e questo abbinato, identificato con l'Europa, ci fa dimenticare quello che è stato l'Europa e perché l'Europa è nata. Se noi chiedessimo ai nostri giovani oggi cos'è l'Europa, probabilmente ci risponderebbero: è la brutta cattiva che ci impone, ci sta facendo impoverire, che sta facendo, ci impedisce di trovare lavoro. E probabilmente in pochi risponderebbero: è la grande innovazione politica del secolo scorso che ci ha permesso di vivere 60 anni in pace dopo mezzo secolo di devastazioni e di crimini contro l'umanità. Oggi, insieme ad Adriana Cerretelli, Alessandra Cosse e Andrea Fontana, appunto parlerete di raccontare l'Europa anche attraverso lo storytelling. Cosa significa partire dalle storie, o meglio partire dalle persone, per raccontare un progetto, un sogno, una visione? Esatto, lo storytelling è una delle tecniche di comunicazione più utilizzate soprattutto nell'ambito della comunicazione politica. L'esempio più facile è quello di Obama, la sua storia che ha conquistato il cuore degli americani prima che le loro menti. Ecco, replicare un percorso comunicativo del genere per l'Europa credo sia una delle uniche soluzioni, appunto, per ridurre, cercare di contrastare questo euroscetticismo dominante che ormai è certificato dai numeri. Ne cito solo uno: nell'ultimo anno 2012-2013 la fiducia verso il processo di integrazione europea in media in Europa è sceso del 15%, quindi numeri che ci devono assolutamente far riflettere. Sovranità, Europa e democrazia, altri temi ricorrenti qui al Festival, tanto che ieri la democrazia in Europa era il titolo di un incontro che ha visto protagonista Mario Monti insieme all'onorevole Sylvie Goulard, e siamo molto orgogliosi di avere con noi appunto Sylvie Goulard in viaggio, ma per raccontare quello che è successo ieri. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Partirei dal sottotitolo del libro che lei ha scritto con Mario Monti, che è Guardare avanti, guardare lontano. L'Europa oggi può permettersi di guardare lontano? Non penso che sia una cosa che dobbiamo permettersi o no, è una necessità. Guardare lontano, pensare a medio e lungo termine, perché se non lo facciamo, per esempio dal punto di vista delle riforme strutturali, la generazione che viene dopo lo paga a un prezzo altissimo. La democrazia in Europa, il titolo del libro, ma il titolo anche dell'incontro che avete tenuto ieri insieme a Mario Monti. La democrazia in Europa come sta? Se lei potesse fare una fotografia alla democrazia in Europa, che fotografia uscirebbe oggi? Ma non sarei una fotografia, sarei piuttosto un politico di pittura, con da un lato la democrazia nazionale non sta bene, nonostante molte persone credono che sia il livello giusto, che a livello nazionale c'è la democrazia vera e a livello europeo c'è solo un deficit. Io ho l'impressione che in Francia, nei Paesi Bassi, nel Belgio, in Italia, quasi dappertutto in Europa c'è questa minaccia del populismo, e a livello europeo, un'altra parte del politico, c'è una mancanza di democrazia da un certo punto di vista, e più democrazia che la gente pensa spesso. Prendo un esempio: la Commissione è spesso criticata per essere una burocrazia, ma la Commissione è controllata dal Parlamento europeo e fa il suo lavoro spesso facendo raccomandazioni per gli stati membri, come ha fatto questa settimana. Ma il modo in cui nella crisi economica europea sta diventando il centro di decisione, questo dal mio punto di vista, l'abbiamo scritto sul libro, è una delle cose che dobbiamo, sulla quale dobbiamo riflettere. Nell'emergenza era possibile avere un modo di gestione così, ma non è sostenibile. Le popolazioni vogliono sapere quale sarà la politica fatta, chi decide, non il nord contro il sud, queste cose. Certo, la crisi paradossalmente però ha avvicinato l'Europa ai cittadini, nel senso sì la nascita del populismo, sì la nascita anche di un euroscetticismo, però nello stesso tempo secondo lei c'è stata una curiosità, un avvicinarsi, un interesse nuovo dei cittadini verso l'Europa? Sì, questo è vero, e non dobbiamo sottovalutarlo. Per esempio, quando ci sono elezioni in un altro paese, ora è molto più seguito dalla stampa, dai cittadini, l'abbiamo visto per le elezioni in Italia che sono state seguite dappertutto e fra poco ci saranno le elezioni tedesche, questo è vero. La cosa più preoccupante è che i cittadini hanno anche l'impressione che l'Europa sia solo una fontana, una fonte di austerità, di difficoltà, e questo è il lato più scuro di questa evoluzione. Onorevole, ma per chi lavora ogni giorno nel cuore dell'Europa, qual è lo spirito con cui appunto si va in ufficio, con cui ci si sveglia la mattina e si tenta di guardare lontano? Qual è il sentimento che vi accompagna nel vostro lavoro quotidiano? Dipende un po' dai giorni, devo dire. Io ho l'impressione che noi parlamentari europei siamo privilegiati, perché abbiamo la fortuna di vedere ogni giorno colleghi e collaboratori di tutti i paesi, dunque la dimensione umana del lavoro insieme, anche con le difficoltà, ma abbiamo anche le cose positive, le emozioni, il fatto di conoscere delle persone. Dunque per noi è una cosa abbastanza difficile, ma bellissima. La cosa che mi preoccupa è che molta gente va al lavoro o non ha lavoro e non ha neanche questa rete di contatti europei per mettere un po' in prospettiva quello che senti o vedi da lontano l'Europa. Dunque io non voglio dire che sia in una posizione difficile, c'è tanta gente che ha molto più difficoltà, ma fare andare avanti persone molto diverse in un'Europa sempre più eterogenea non è sempre facile. Onorevole, la parola crisi è la parola che ha accompagnato l'Europa in questi ultimi anni. Tentiamo un sogno, tentiamo una previsione. Quale può o quale dovrebbe essere la prossima parola che etichetterà l'Europa, secondo lei? Ma mi piacerebbe dire, ma io non posso dire sul futuro che cosa accadrà, mi piacerebbe che fosse la parola fiducia, ritrovare un po' la fiducia nel progetto europeo e vedere anche le cose positive che sono state fatte e ritrovare la fiducia tra noi tutti. Facciamo nostra questa parola che è di ottimo auspicio. Grazie davvero all'onorevole Sylvie Goulard. La democrazia in Europa, ricordiamo, edito da Rizzoli. Buongiorno onorevole, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Beh, Andrea, la parola fiducia, ma magari, se, però bisogna partire anche da lì, credo che raccontare l'Europa in una chiave nuova, che non vuol dire nascondere la realtà, non vuol dire mistificare, vuol dire vedere anche altro, quindi andare oltre la crisi. Sto pensando che, per esempio, nel nostro raccontare la Grecia in questi mesi, in questi anni di programma, abbiamo raccontato la disperazione, la tragedia, la fame anche, però anche la creatività, anche il trovare altre strade, la forza arrivata dai giovani che si stanno inventando veramente strade nuove per risollevare la situazione. Quando dici che si deve raccontare l'Europa in un modo diverso è anche questo, e comunque avere la fiducia come pilone portante dell'Europa può passare anche proprio dal raccontare l'Europa in maniera nuova. Assolutamente sì, la fiducia va conquistata, non lo puoi ottenere per altre vie, e la conquisti come la faresti con una bella donna, quindi l'Europa deve fare innamorare i cittadini di se stessa. E come può farlo se non raccontandosi, ma raccontandosi in modo da creare empatia, quindi da creare un collegamento che vada al di là della ragione e quindi al di là degli aspetti economici, del lavoro, che sono sicuramente, come dire, punti cardine dell'esistenza di ciascuno, ma non bastano, ci vuole qualcosa di più, ci vuole sentimento, e il sentimento è conquistare dal punto di vista emotivo i cittadini. L'Europa deve comunicare di più e meglio, e quindi deve farlo, secondo me, attraverso appunto lo storytelling, quindi raccontando storie, raccontando la storia di se stessa, perché è una storia magnifica. Fabio, dove ci porti ora? Vi porto a Parigi nel 1712, leggendovi una lettera che un persiano scrive È una lettera famosissima, uno dei testi più famosi della letteratura francese, e fu pubblicata pochi anni dopo, da quanto fu scritta, nel 1721, da Montesquieu, che è considerato uno dei più grandi pensatori francesi, sia dell'illuminismo che di tutta la storia della cultura francese. L'hai scelta perché? L'ho scelta perché, come adesso sentirete quando la leggo, racconta in questo libro di lettere persiane, questa ne è una sola, si racconta il viaggio da Isfahan, che allora era la capitale della Persia, a Parigi, e quindi dalla Persia, dall'Oriente all'Europa, attraverso, un viaggio lungo ovviamente anche oggi, ma anche soprattutto allora, attraverso da Isfahan, che era la capitale prima di Teheran, a Livorno, prima a Venezia, poi a Livorno, poi a Marsiglia, poi a Parigi. E quando arrivano a Parigi, questi persiani si trovano di fronte a modi, usi, costumi, quelli europei, molto diversi dai loro, religioni diverse. Loro sono maomettani e si trovano di fronte a più religioni, perché ci sono, certo, i cattolici, ci sono i protestanti, ci sono gli ebrei e ci sono anche quelli che non credono in nessuna religione, ma tutti, dice Montesquieu, vanno assolutamente rispettati. Ok, entriamo in questa suggestione e lo facciamo appunto attraverso questa lettera. Gli abitanti di Parigi sono di una curiosità che può raggiungere la stravaganza. Al mio arrivo mi guardavano come se fossi stato inviato dal cielo. Vecchi, uomini, donne, bambini, tutti volevano vedermi. Se uscivo, tutti si affacciavano alle finestre. Se mi trovavo alle Tuileries, subito vedevo formarsi un cerchio intorno a me. Perfino le donne mi circondavano, formando un arcobaleno dei mille colori. Se ero a teatro, trovavo subito 100 occhialini puntati su di me. Insomma, nessuno è mai stato osservato come me. Talvolta sorridevo sentendo persone che non erano mai uscite dalla propria camera dire tra loro: bisogna riconoscere che ha proprio l'aria di un persiano. A volte qualcuno per caso rivelava ai presenti che ero persiano. Subito un brusio intorno a me: ah, monsieur è persiano. Ma è incredibile, incroyable. Come si può essere persiano? Ora, quest'ultima frase, come si può essere persiano, è diventata una delle frasi più famose di tutta la letteratura francese, ripresa immediatamente da Jean-Jacques Rousseau e da Voltaire. Poi, nel Novecento, da Paul Valéry, da Sartre, fino nei tempi più recenti, anche da quel grande commediografo francese e però di origine romena, Ionesco, che l'ha trasformata in come si può essere un rinoceronte. E mi viene da trasformarla in un'altra frase che ovviamente è molto più attuale, che è come si può essere europei. E tentiamo di darla questa risposta, tentiamo di farlo settimanalmente qui con l'altra Europa, e rientriamo in questa sovranità che è il cuore del Festival dell'Economia, questa parola grande, questa parola complicata, questa parola che può essere avvolgente, che può dare speranza, ma che può essere anche opprimente, che può anche fare paura. Questa sovranità in conflitto perché la crisi la stimola, perché la crisi chiede che si vada ad appoggiare a chi ti governa, si cercano risposte, si cercano soluzioni, si cercano visioni. E uno degli incontri più importanti che ci sono stati qui al Festival ha proprio messo questo confronto tra sovranità e crisi, tra il welfare e la cittadinanza sociale, i nuovi equilibri. Si parla di Mediterraneo, si parla della culla dell'Europa. Una delle protagoniste era la sociologa Chiara Saraceno, che è qua con noi. Buongiorno Chiara. Buongiorno. La crisi e l'Europa, un rapporto strano, perché la crisi ha risvegliato di fatto anche tantissime riflessioni sull'Europa, però poi la crisi è la grande accusa dell'Europa, che diventa, come abbiamo anche appunto ragionato prima, diventa brutta e sporca e cattiva. che leva sarà alla fine la crisi rispetto all'Europa? La crisi sarà la fine dell'Europa o la crisi potrà essere la svolta, secondo lei, per l'Europa? Ma dipende da come l'Europa è intesa, proprio l'Unione Europea come organizzazione politica si comporterà, e il modo in cui ha reagito in questi ultimi anni non facilita lo sviluppo dell'Europa, cioè di un sentimento di appartenenza all'Europa, diciamo. Non voglio adesso fare una tirata anti-europeista, ma proprio perché ci ho creduto molto nell'Europa, mi sembra che quello che sta succedendo adesso, e che è probabilmente frutto di come è stato fatto l'euro, di quello che è successo, cioè per fare una moneta senza avere una comune politica fiscale e così via, ha avuto dei problemi. Però tornando alla questione del welfare, quello che sta emergendo dalla crisi è, primo, che non c'è mai stato davvero un modello sociale europeo, siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro come paesi, e i paesi del Mediterraneo hanno, in questo, hanno una responsabilità molto grave. Cioè la crisi del welfare mediterraneo non è innanzitutto colpa dell'austerità. Questo va assolutamente chiarito. Poi le politiche dell'austerità ci stanno mettendo del loro, ma noi avevamo, noi intendo l'Italia, il Portogallo, la Spagna, ma l'Italia peggio degli altri due paesi, pur essendo partita da una situazione migliore, avevamo un welfare iniquo, sbilanciato, frammentato, con pochissimo investimento sui servizi, sulle più giovani generazioni e così via. Quindi siamo arrivati, prima ancora che alla crisi, alle modifiche nei comportamenti, al fatto che le donne hanno cominciato a lavorare in massa, che c'era quindi un problema di cura verso i bambini, di cura verso le persone fragili, senza fiato, avendo un welfare tutto bilanciato verso solo la protezione del reddito dei più anziani, senza neppure riuscire a garantire del tutto gli anziani dalla povertà. Quindi siamo arrivati sfiatati e troppo rigidi a quello, senza aver pensato cosa stava cambiando nella demografia, nei comportamenti, e poi quando bisognava innovare nelle politiche i soldi non c'erano più. Mm-hmm. E questo è colpa nostra, non è che il welfare viene tagliato perché ce lo chiede l'Europa. In realtà l'Europa avrebbe dovuto chiederci di più negli anni passati, ma questa è stata una scelta europea, quella di non dare regole, di non dare criteri minimi comuni per quanto riguarda il welfare. Certo, tutti i paesi europei hanno una qualche forma di indennità di disoccupazione, hanno una, a differenza degli Stati Uniti, hanno una qualche forma di sistema pensionistico obbligatorio, hanno tutti una forma di congedi obbligatori, congedi di maternità e genitoriali, però, come dire, passare da un paese all'altro, uno capisce che a parità di reddito uno ha o non ha l'assistenza sanitaria di un certo tipo, ha o non ha i servizi per i propri figli e così via. Cioè noi siamo molto più diversi sul welfare a livello europeo di quanto non siamo per i sistemi politici, certo, per i sistemi parlamentari. Saraceno, ma ci sono delle visioni, o meglio, si può ripartire o è un danno irreparabile? Io credo che soprattutto in paesi come l'Italia e quelli mediterranei, se noi cominciassimo a prendere sul serio il gergo europeo del welfare e dell'investimento sociale, Cioè, se noi cominciassimo a pensare che il welfare non è soltanto una spesa improduttiva, anzi non è una spesa improduttiva, ma può essere una spesa altamente produttiva di investimento, cioè quello di investire sulle più giovani generazioni nell'istruzione, investire sui giovani perché acquistino competenze professionali e le possano valorizzare e così via, e quindi investire anche sulle politiche di welfare che invece sono state fortissimamente tagliate, cioè invece che essere riequilibrati, rimesse a fuoco, rese più adeguate alla situazione attuale, sono state semplicemente tagliate. Se noi invece ci cominciassimo a pensare, oltre a creare un volano di occupazione, creeremmo anche una nuova visione per il futuro, non solo per mantenimento dell'esistente. Quindi sì che ci potrebbe essere ma in questo avremmo bisogno un pochino di Europa. Allora, nelle raccomandazioni che ho letto ha fatto l'Europa quando ci ha tolto dalla procedura di infrazione per il deficit. E già sorride, perché sorride mentre lo dice? Saraceno? Sì, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Comunque, no, ce n'è una che trovo assolutamente ridicola, perché dice ancora più flessibilità, come se il problema del disoccupazione in Italia fosse che abbiamo un mercato del lavoro troppo rigido. No, abbiamo un'assenza di domanda di lavoro, questo è. Quindi continuare a dire che il problema è che sono i lavoratori che non sono abbastanza flessibili mi sembra ormai quasi fantascientifico, ecco, ancora più flessibile, soprattutto per i giovani, mi viene ancora più flessibili di così, che cosa vogliamo? No, però invece c'è l'idea che bisogna investire di più in servizi per l'infanzia, in servizi per conciliazione, perché le donne non è che possono delle super donne che, a parte che la domanda di lavoro che non c'è, ma anche ci riuscissero a trovare un'occupazione, possono poi far tutto, essere occupate, curare i bambini, curare i vecchietti fragili, non lo so, ecco. Certo, no. Mi sembra un'ottima lettura. Grazie davvero a Chiara Saraceno, sociologa protagonista qui al Festival dell'Economia di Trento. Buon lavoro, Saraceno. Buon lavoro a voi. Andrea Ferrazzi, storytelling, racconto narrativo dell'Europa. Prima mi dicevi che il problema in ogni storia è avere un buono e un cattivo. Il problema dell'Europa è trovare questo cattivo al di fuori di se stessa, perché c'è una strana sovrapposizione, perché il cattivo è anche il protagonista. Assolutamente sì. Storytelling in fondo significa raccontare storie, le storie ci hanno accompagnato dalla nostra infanzia, con tutte le fiabe che conosciamo, i Tre Porcellini, il Cappuccetto Rosso, e tutte avevano il cattivo, il lupo cattivo. Il problema è che in questa narrazione attuale dell'Europa il nemico, tra mille virgolette, ce l'abbiamo in casa, no? Agli occhi dell'opinione pubblica il nemico è la Germania per i paesi del sud, e per i paesi del nord sono i paesi del sud, spendaccioni, cattivi, brutti. E questo, come dire, il ritornello che sentiamo in continuazione, amplificato molto anche dall'uso dei social media. E fino a quando non riusciremo ad individuare un nemico, comunque un personaggio cattivo al di fuori dell'Europa, difficilmente riusciremo a raccontare una storia efficace. Mm-hmm. Ma forse anche questa ricerca a tutti i costi di un nemico che sia più nemico di altri, poi è anche la causa di quelle derive che vediamo quotidianamente in Europa, come appunto il populismo di cui accennavamo prima. Di tematiche molto simili a queste se ne parlerà domenica in un incontro intitolato Sovranità sotto tutela o tutela della sovranità? L'Unione Europea al tempo della crisi. Tra gli ospiti il professor Sergio Fabbrini, docente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ed è qua in collegamento con noi. Buongiorno Fabbrini. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, Andrea, mi dicevi che è stato un tuo professore? Controllatore della tesi. Attenzione, quindi già ti vedo già emozionato. Sì. Fabrini, scusi per Buongiorno questo. Andrea. Così ci siamo... Buongiorno, Andrea. Professore. Abbiamo un attimo deviato. Fabrini, la sovranità sarà il cuore del dibattito che animerete, che coordinerà domenica. Sovranità sotto tutela o tutela della sovranità? Ha una risposta già a questa domanda? Ma io ho una risposta a questa domanda e la risposta è la seguente. L'Unione Europea si è trasformata nel corso della crisi dell'euro in una direzione che ha contribuito a rafforzare la crisi dell'euro. A Maastricht fu fatto un grande compromesso, fu deciso di trasferire a livello europeo la competenza in politiche pubbliche di particolare interesse, cruciali per gli stati nazionali, come la politica finanziaria ed economica, come la politica estera, a condizione però che i governi degli stati membri controllassero queste politiche. In qualche modo a Maastricht si decise di creare due unioni, l'unione del mercato, prima comune e poi divenuto singolo con l'atto del mercato singolo del 1986, gestito da una serie di istituzioni relativamente equilibrate come il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri, la Commissione e poi il Consiglio europeo. Però nello stesso tempo fu costruita un'unione intergovernativa che ruota intorno ai due principali organismi intergovernativi che funzionano a Bruxelles, cioè il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo e il Consiglio dei Ministri, in questo caso nella politica finanziaria l'Ecofin e nel caso della politica estera il Consiglio per gli affari esteri. E queste due unioni sono convissute nel corso degli anni 90, il trattato costituzionale ha tolto i pilastri ma ha confermato i due diversi regimi decisionali e Lisbona ha finalmente celebrato questa coesistenza delle due unioni. Probabilmente chi fece quel compromesso sperò o sperava che prima o poi anche l'unione intergovernativa finisse nella logica sovranazionale. Così non è avvenuto. Con la crisi finanziaria, anzi, l'unione intergovernativa si è rafforzata rispetto alla unione sovranazionale. Le decisioni vengono prese dai capi di Stato e di Governo all'interno del Consiglio europeo, ce ne sarà uno importantissimo il 21-22 giugno. Molte di queste decisioni vengono prese all'interno dell'Ecofin, dei ministri finanziari dell'area dell'euro in particolare, che formano l'Eurogruppo. È evidente che quando noi diamo il potere decisionale a organismi intergovernativi, alcuni paesi contano più di altri, alcuni interessi sono considerati più legittimi di altri, alcuni governi sono più predominanti di altri. E di qui la logica del direttorio che si è affermata all'interno del Consiglio europeo, prima un direttorio franco-tedesco, il cosiddetto Mercosì, sempre di più però con l'indebolimento della Francia abbiamo avuto un direttorio tedesco e così anche nella politica estera, noi basti pensare all'intervento militare in Libia nel 2011, di fatto è stato un intervento guidato da un direttorio franco-inglese, alcuni paesi hanno seguito, altri si sono messi ai bordi del campo. Insomma, questa crisi ha rafforzato un'Europa intergovernativa. L'Europa intergovernativa, creando la logica del direttorio, non ha potuto creare le condizioni del consenso, della legittimazione per gestire quella crisi. Quindi la crisi non è stata risolta tecnicamente, è diventata sempre di più una crisi gestita tecnocraticamente e i cittadini l'hanno subita, quella Europa intergovernativa, non l'hanno scelta. I cittadini italiani non hanno votato per la signora Merkel, i cittadini tedeschi, i cittadini inglesi non hanno votato per i governi dell'Europa del Sud, quindi ognuno si sente espropriato di una basilare capacità di decisione ed è questo che bisogna mettere in discussione ed è questo quello che cercherò di fare nella mia relazione di domani. Grazie davvero per questa anticipazione a domani, quindi con questo incontro che già dentro al titolo racchiude tantissime suggestioni di questa sovranità in conflitto, tema del Festival dell'Economia 2013. Grazie, buon lavoro. Siamo quasi in conclusione, ma ci ha raggiunto il professore Tito Boeri, anima del Festival. Buongiorno Boeri, grazie. Buongiorno. Grazie. E oggi pomeriggio parlerete di Europa, lo farete parlerete con il Premier Letta con questa domanda: quanta e quale Europa vogliamo? Siamo a caccia di risposte, lei ce l'ha la risposta a questa domanda? La risposta chiaramente non ce l'ho, credo che sia una risposta collettiva in ogni caso, perché Letta dovrà andare a discuterne ai prossimi vertici europei. Questo festival si colloca proprio a metà tra due vertici europei molto importanti e si tratterà di capire se c'è un modo per ampliare il bilancio comunitario, che purtroppo anzi è stato ridotto, ma ci possono essere degli altri meccanismi per renderlo più grande, per esempio se si permette ai paesi di superare la regola del disavanzo del 3% quando si impegnano dei fondi cofinanziati dall'Europa. A quel punto l'Europa decide quali sono gli investimenti, infrastrutture che sono davvero meritori di finanziamento comunitario, lo Stato aggiunge, gli Stati nazionali aggiungono la loro quota di finanziamento, che può essere una quota importante, anche l'80%, e a quel punto questa somma che viene impiegata in queste attività esce dalla regola del 3%. Potrebbe essere un modo per aumentare di fatto le dimensioni del bilancio europeo senza poter avere invece le risorse che andavano allocate a questo scopo. Si è già fatta tanta strada in questo festival, ma sabato e domenica è un po' il momento clou. Qual è l'umore che ha raccolto? Questa parola sovranità, al di là di conflitto che insomma è una parola forte, però questa parola sovranità con cui c'è uno strano rapporto, è stata accolta bene, è stata una parola avvolgente, è stata una parola che ha spaventato, qual è il polso? Ma devo dire, questo probabilmente perché siamo a Trent ed è sempre un pubblico molto attento che va al di là di impostazioni dogmatiche, per cui quando si sente parlare di sovranità o di cessione di sovranità subito c'è un irrigidimento. Se pensiamo anche all'ultima campagna elettorale, è stata una delle cose che è stata agitata di più, no? Lo spettro di una perdita di sovranità del nostro paese. In realtà quando se ne discute a questo livello io trovo che la gente reagisce molto bene, perché si capisce che certe cessioni di sovranità sono in realtà un modo per riguadagnare una sovranità su dei processi di cui avremmo perso comunque il controllo. Quindi c'è una discussione su queste cose attenta, che va al di là della parola, del termine e di ciò che spesso questo termine può evocare. Non ci stiamo dando dei tempi, però stiamo cercando una parola che vada a sostituire il termine crisi, legato soprattutto all'Europa. È uscito ottimismo, è uscito fiducia, è uscito ripresa. Lei ce l'ha una parola che, così come auspicio, che vorrebbe che andasse definitivamente o quasi a sostituire la parola crisi? Beh, io credo che noi dovremmo pensare, proprio immaginarci che siamo in mezzo a un guado, e quando si è in mezzo al guado è proprio la peggiore delle situazioni possibili, con l'acqua alla gola. Allora la tentazione di tornare indietro è forte, ma noi dobbiamo andare avanti, e quindi questa forse è l'immagine che noi dobbiamo dare, completare il passaggio, dobbiamo andare avanti, nuotare, andare dall'altro lato della sponda. Grazie davvero a Tito Boeri in bocca al lupo per questo weekend assolutamente intenso. Un minuto per chiudere questa puntata, la chiudiamo con un'altra lettura tra quelle scelte dal professor Ranchetti. Fabio, dove ci porti in conclusione di puntata? Allora, io ho cercato di rispondere con questi testi alla domanda che anche prima ci eravamo posti, e cioè come possiamo essere europei? Leggo un testo di un grande europeo proprio perché ha capito che per essere europei e per capire l'Europa bisogna avere uno sguardo da lontano, cioè bisogna andare lontani per andare più vicini in Europa. Questo grande europeo è Claude Lévi-Strauss, antropologo francese morto solo qualche anno fa. Nelle grandi Antille, pochi anni dopo la scoperta dell'America, mentre gli spagnoli spedivano commissioni di inchiesta per stabilire se gli indigeni fossero o no dotati di un'anima, questi ultimi si occupavano di immergere i prigionieri bianchi sott'acqua per verificare, con una sorveglianza prolungata, se il loro cadavere fosse o meno soggetto a putrefazione. Questo aneddoto barocco e tragico a un tempo esemplifica bene il paradosso del relativismo culturale, cioè proprio nella misura in cui pretendiamo di stabilire una discriminazione tra le culture e fra costumi, ci identifichiamo nel modo più completo con quelle che cerchiamo di negare. Contestando l'umanità di coloro che appaiono i più selvaggi o barbari tra i suoi rappresentanti non facciamo altro che assumere un loro atteggiamento tipico. Il barbaro è anzitutto l'uomo che crede nella barbarie. L'economia, la politica e la cultura che vanno a braccetto. Questo è stato oggi l'Altra Europa in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.